chiudiamo la reunion degli spettatori con una cosa speciale. Abbiamo una visita guidata che è dedicata appunto a tutti gli spettatori che vengono da fuori, che vogliono conoscere la città di Arezzo, tra l'altro anche attraverso dei racconti personali di alcune persone, antiquari, restauratori di Arezzo, e poi con uno spettacolo di piazza per tutti, gratuito, che è Pentesilea del Teatro dei Venti. Quindi cioè chiudiamo la reunion veramente dedicata a tutti gli spettatori. Quindi su www.festivaldellospettatore.it ci sono tutti i riferimenti. Ma noi ci stiamo preparando a questa che vorremmo essere, che fosse veramente una festa del teatro e peraltro delle arti in generale. Terza edizione Festival dello Spettatore ad Arezzo dal 3 al 7 ottobre. Un saluto e un ringraziamento a Laura Caruso, una delle curatrici. Laura, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao.